La domanda del nostro quiz era la seguente: che cosa si è scoperto di recente di molto particolare sui nostri antichissimi cugini, quelli di Neanderthal? Allora, avevamo detto tracce d'oro nelle ossa, è una tremenda falsità, ma ormai siete abituati al fatto che nei nostri quiz c'è sempre qualcosa del genere, una gigantesca fesseria. Non avevano sei dita nei piedi e invece erano cannibali. Non è detto che lo fossero tutti, badate, in una grotta in Spagna si sono trovati resti però inequivocabili di pasti a base di, come possiamo dire, amici, parenti con cui avevano litigato. Questo purtroppo non lo sapremo mai.